Allora, signori, buonasera a tutti. Dunque, la settimana scorsa siamo andati a vedere, ad iniziare, le query di calcolo per riga. Quindi quelle query che ci permettono di andare ad effettuare un calcolo riga dopo riga. Direi di rivederle un secondino, più o meno velocemente. Prima di tutto volevo andarmi ad importare un file Ok, allora questo è un file sul quale lavoro io spesso e volentieri, per cui ovviamente non state a guardare i dati. Allora, supponiamo di lavorare su un file come questo, ok? Le query di calcolo su le query di calcolo per riga, abbiamo detto, partono sostanzialmente da una query normalissima, quindi parto a fare una query normalissima. Dopodiché, questa query normalissima in questa query normalissima si va ad aggiungere una colonna e in questa colonna io vado a effettuare un calcolo. Questo è il meccanismo delle query di calcolo per riga. Quindi io parto da una tabella che potrebbe essere questa, dove gli vado a mettere la ragione sociale, lo stato, l'anno e il mese, e quello che viene fuori è una cosa di questo genere. Ovviamente valgono tutte le regole per andare a filtrare questi elenchi che abbiamo visto nelle varie settimane. Quello che però noi interessa in questa fase è dire, ok, supponiamo che io abbia un foglio come questo, scusate, un campo come questo, dove c'è lo stato che è uno stato numerico. No, prendiamo questo che è numerico, scusate, perché questo qua è letterale. Lo vedete che qua è allineato a sinistra. In realtà questi sono dei testi, anche se io vedo dei numeri. Siamo d'accordo tutti? Occhio a questa roba qua perché su Access è molto severo. Cioè, mentre su Excel questo non importa, nel senso che basta fare più 0 e lo trasformo in un numero, su Access questo discorso. No, non è che lo allineo. In realtà se è allineato a destra è un numero, se è allineato a sinistra è un testo. Ma d'altro canto ha anche un senso perché se io prendo Excel e scrivo ciao, è allineato a sinistra. Se scrivo 90, è allineato a destra. Perché i numeri io li allineo sempre sulla destra. Viceversa, si parte a scrivere da sinistra verso destra, per cui il testo è allineato a sinistra. Questa cosa qua non è una cosa da poco, perché se io inizio a fare delle operazioni su questi, che sono in realtà dei testi, convinto che siano dei numeri, questo inizia a darmi problemi su problemi su problemi e bisogna usare degli altri trucchettini. Iniziamo quindi da questi numeri. Ora, questi numeri rappresentano delle date fatte al contrario. Noi non ci interessiamo del fatto che siano delle date. Supponiamo che siano semplicemente dei numeri e quindi ci andiamo a fare una semplice somma e o una semplice divisione, che ovviamente su una data non avrebbe senso. Quindi fondamentalmente che cosa si fa? Abbiamo detto, si va nella prima colonna libera e e si va a scrivere il nome del campo. Nome del campo che deve seguire le regolette che abbiamo raccontato in tutti questi mesi. Quindi non dovrebbe contenere degli spazi, punteggiature o cose simili. Se è composto da più parole, devono essere attaccate con le iniziali maiuscole. Quindi supponiamo che io voglia fare un campo di prova e poi due punti. Questo sostanzialmente è il meccanismo che mi permette di creare una nuova colonna che si chiama appunto campo di prova. Se io maneggiassi lo stesso documento su Excel, fondamentalmente quello che ho scritto adesso vorrebbe dire andare a scrivere campo di prova su una nuova cella e andare a scrivere uguale. In Excel è come se avessi fatto questo. Ok, a questo punto schiaccio la bacchettina magica. La bacchettina magica che alias il generatore mi apre questa videata qua. E questa videata qua si chiama appunto generatore di espressioni, peraltro si ripete uguale di versione in versione, e mi dà nella parte alta il box dove andrò a scrivere la mia funzione, la mia formula, la mia funzione. Nella parte bassa l'elenco degli oggetti e delle formule, per cui vedete che se io vado a fare clic sul più a fianco a tabelle, lui mi dà le tabelle presenti. Se vado a fare clic sul più delle query, mi dà le query presenti e così via dicendo. Non è detto che poi non andiamo a vedere a che cosa serve anche interpellare le query anziché le tabelle, anziché, però diciamo che è uno step ancora un pochino dopo. Quello che a noi interessa fondamentalmente sono le funzioni. Quindi io schiaccio su funzioni, anzi facciamo il caso ancora più semplice, niente funzioni. Se io voglio fare un esempio semplice semplice, prendere la data di perfezionamento e dividerla per 100, ok? Allora o qua vado a scrivere CQ rep underscore 00 pa, mi seguite? Oppure posso andare in tabelle, produzione e fare doppio clic e lui automaticamente me lo inserisce. Andando sulla tabella. Sì, cioè se, esatto, allora o me lo scrivo quel campo. Ma in caso come questo, che è relativamente lungo da scrivere, a sinistra, in basso, scelgo tabelle, cioè vado a recuperarmi il campo dov'è. Quindi in questo caso andrò su tabelle, produzione e faccio doppio clic sul campo. Ora, una cosa ragionevolmente antipatica che succede in Access è questo ESP. Cioè, spesso e volentieri Access vi mette questo ESP tra virgolette. Quell'ESP lì in realtà è da cancellare. Perché? Perché mi dice solo, guarda che prima o dopo o in mezzo devi mettermi qualcosa. In questo caso quell'ESP sta per ciò che noi abbiamo messo prima, cioè campo di prova due punti. Quindi tipicamente quell'ESP lì è da cancellare e in taluni casi da sostituire, in tali altri come questo, semplicemente da, cioè, se l'ho già scritto non ci devo fare nulla. Scusi, ma cosa sta per espressione? Espressione. Ah, ok. Ok? Tanto è vero che se voi invece di andare a prendere un campo fossimo andati a prendere una funzione, prendiamo questo, ma prendiamone veramente una a caso, vedi che lui vi dà prima di nuovo ESP, che vuol dire guarda che mi deve andare a inserire qualcosa. Ci sono poi addirittura alcune funzioni dove l'ESP ve lo mette all'interno. Vediamo se prende... Niente. Io però nelle vecchie versioni mi ricordo che al posto di numero, precisione e altro c'era scritto di nuovo ESP. Comunque, insomma, poco importa. Quando voi vedete qualcosa racchiuso tra questi tipi di virgolette, vuol dire che lui si aspetta che voi gli inseriate qualcosa. O che è già inserito, come in questo caso qua, esatto. Comunque, fondamentalmente il concetto è che quell'ESP deve essere sostituito da qualcosa. Quindi, doppio clic, lui mi inserisce la data di perfezionamento, mi tolgo l'ESP. Lui qua ha utilizzato la sintassi più lunga, ma non statevela a scrivere. Semplicemente meditateci sopra, quando facendoci doppio clic lui ve la ripropone. La sintassi lunga, vedete che il nome della tabella, tra parentesi quadre, punto esclamativo, il nome della, del campo, tra parentesi quadre. Mi seguite? Sì, ma questa è la sintassi più completa e più lunga. In realtà basterebbe anche solo il nome della tabella. Il nome del campo. Ok, lo mette soprattutto quando le tabelle sono più di una, perché in quel caso lì magari io potrei avere data in una tabella, data nell'altra, allora lui ti dice, sai che c'è, per non confonderci sulle date, scrivo nome della tabella, punto esclamativo, nome del campo. Quindi, io posso anche lasciare il nome del campo nudo e crudo, ok? Essendo ben sicuro che non ci sia lo stesso nome del campo in altre tabelle, perché sennò lui non sa quale deve andare ad acchiappare. Viceversa, se facendoci doppio clic lui mi restituisce l'espressione più completa e questa espressione non mi turba particolarmente, posso anche lasciare tutto l'ambaradan. Ok? E a questo punto faccio diviso 100 più 10, cioè è come se avessi sostanzialmente in Excel scritto N2, dove in N2 c'è lo stesso valore numerico. D'accordo? È come se in Excel al posto di produzione, punto esclamativo, CQREP, data, eccetera, eccetera, avessi scritto N2. Quindi, così come in Excel, farei diviso 100 e schiaccerei invio, analogamente in Access farei diviso 100 e schiaccerei OK. Dando l'esegui, lui prende lo stesso numero e lo divide per 100. È normale che sia così. Non modifica la tabella. La query, a meno che tu non faccia una query di aggiornamento, non modifica le tabelle. Cioè quel campo lì viene soltanto sulla query o sulla maschera, sui report. Comunque tutto quello che sta a valle di una tabella. Che peraltro è il metodo per cui tipicamente quando andiamo ad un'anagrafe o da qualsiasi altra parte nel quale ci chiedono quando si è nati, ci chiedono la data di nascita. Perché? Perché fondamentalmente ci sarà poi una query che si va a calcolare quanti anni ha la persona Ma mentre la data di nascita rimane fissa, l'età ovviamente cambia col passare del tempo. Quindi tipicamente con questo meccanismo qua, e così come posso dire, diciamo anche questo concetto, con questo meccanismo le tabelle dovrebbero essere composte solo di quei campi che non sono calcolabili. D'accordo? Quindi mai mettere l'età, per intenderci. Mettere sempre la data di nascita, perché poi l'età te la calcoli con questo sistema qua, insomma. Mai mettere il totale di una fattura, ma sempre solo l'imponibile. Perché l'imponibile? Perché dall'imponibile, vabbè, a meno che non cambi la percentuale, eccetera, eccetera, però comunque dall'imponibile tu arrivi poi al totale della fattura. Ok? Quindi, insomma, in generale, tutte le volte che io ho un valore che può essere calcolato, questo valore qua non deve essere messo all'interno delle tabelle. E con questo concetto proviamo a vedere elenco, film, struttura. Ok, d'accordo Vanni? È chiaro quindi come si fanno le query di calcolo? Per scegliere l'anno, perché anche non sono subito. Per scegliere l'anno, se mi restituisce sempre un 1965, perché? Dunque, stiamo parlando di una data, no? Stiamo parlando di una data. La funzione anno per ancora una data. Ok. Quindi vediamo se qua c'è un anno. Una funzione di dati, bisognerebbe avere delle date che ovviamente io non ho. Ci facciamo velocemente una tabella. Ma la data in formato numerico, vedi? Allora, se io ho un campo di tipo data, e metto 5, 5, 2005, 6, 6, 2006, 7, 7, 2007, ok? Allora, faccio una query, dove sei? Prendo tabella 1, data, anno, due punti, generatore di espressioni, vado su funzioni, funzioni, data e ora. Ok, year, gli tolgo l'espr e al posto del numero vado a scegliergli l'id data. Ok? Gli metto data. Cioè metto il nome del campo. Invece di numero metto il nome del campo. Vabbè, certo. Okay. Forse quello è il problema. È chiaro che se tu gli metti un numero, lui gli restituirà sempre quel numero. Quindi dandogli l'ok, lui mi dà di volta in volta l'anno differente. Giusto? È chiaro che se io al posto del campo gli andassi a mettere 2001, quello mi prende 2.900. E poi la verità è l'indirizzo del valore, metto il nome del campo e l'indirizzo dove è situato il valore. Sì, esatto, che fondamentalmente vuol dire che nel momento in cui io faccio uguale anno, se io gli metto dentro una data fissa, lui mi prenderà, trascinandola in basso, sempre l'anno di quella data fissa. Che è l'anno? Che è l'anno 2001. Sì, ma non è, cioè, 2001 non è una data, è un numero. E di conseguenza, se io prendo questa formula e la trascino sotto, chiaramente lui mi dà sempre 1905. Se viceversa io gli andassi a dire, vabbè, qua non ho un campo data, però gli andassi a dire, pigliami la data che sta in N2 e poi in N3, in N4, in N5, allora lui di volta in volta se la cambia. D'accordo, signori? Ok, quindi era questo il problema? Ok. Vabbè, quindi con lo stesso meccanismo, al posto di year, abbiamo detto, posso mettere month e mi tirerà fuori, chiaramente non del 2001, bensì di id data, mi tirerà fuori il mese, e day il giorno. Ok? Quindi, su un elenco fill, va bene, l'elenco fill chiaramente a me interessa solo l'anno, non è che mi interessa, vabbè. Però in altri casi dove magari si ha la bolletta, per intenderci, può valer la pena andare a mettere non il mese in una colonna e l'anno nell'altra, ma mettere proprio la data in cui arriva la bolletta e magari il periodo di competenza, perché con questi tre valori, quindi la data in cui è arrivata e da quando a quando è di competenza la bolletta, io posso andare a fare tutta una serie di ragionamenti che vanno dopo quanto mi è arrivata la bolletta, quanti mesi sono, in che periodo, cioè posso fare tutta una serie di ragionamenti molto anche articolati con tre date alla fine. E poi fare la somma riga per riga, cioè di fianco non puoi. Giammai. Giammai. Ma non solo non puoi, non devi. Perché non devi? Se ad esempio vuoi vedere diciamo il susseguirsi di quelle spese che uno ha avuto. Fai una query. Ok, quindi una query. Però è totale, insomma. No. Faccio una di raggruppamento. Sì. Raggruppo il tipo di spesa, ad esempio gas, ad esempio. No. Allora, occhio signori, perché in realtà di cosine voi iniziate a saperne fare tante. Adesso arriva in realtà la parte un pochino più difficile, perché? Perché dovete iniziare a mettere insieme i tasselli. Ora, se io ho la data, ho il tipo bolletta, che sarà gas anziché quello che è, e l'importo, che sarà valuta, giusto? Ok. Allora, tipo di bolletta, gas, importo 1000. Tipo di bolletta, luce, importo, Esatto, e di nuovo gas, che è per esempio 500. D'accordo? Quindi io mi aspetto, cioè in qualche modo voglio fare in modo che di avere luce 100 e gas 1500. Allora, a questo punto nella mia query tipo bolletta e importo, faccio una query di raggruppamento dove raggruppo per tipo bolletta e sommo per importo. Dopodiché ributti dentro tipo bolletta e ne fai un conteggio. Se non ti piace scritto conteggio di, gli dici tot bollette due punti. Quindi signori, iniziate a sapere fare davvero tante cose. Adesso arriva il momento, tra virgolette, più difficile. Cioè, se fino adesso vi sembrava difficile il fatto di avere un sacco di nozioni, in realtà il sacco di nozioni, avete visto che poi pasticciandoci sopra inizia a tornare tutto. Ora la parte difficile è quella di andare a mettere insieme queste nozioni. Ma il discorso è sempre lo stesso, cioè bisogna cercare di evitare le ridondanze. Per cui se io devo andarmi ad inserire delle varie bollette, sicuramente dovrò mettere l'importo, sicuramente dovrò mettere la data. Posso decidere se andare a mettere la data di arrivo e la data inizio, data fine. E poi la tipologia, il gas, luce o il fornitore. E l'elenco di un eventuale bollette è fatto così. Non posso mettere altri campi, perché andare a mettere altri in campi vorrebbe andare a fare della proliferazione di campi. Cioè, l'ultima cosa che mi deve passare per anticamera del cervello di fare è scrivere importo gas, importo luce. Che non è quello che abbiamo fatto, vero? Okay. D'accordo, signori? Perché l'importo è sempre importo, l'importo della bolletta. Va bene. Ok, questo è sommariamente quello che abbiamo visto e rivisto questa sera. Visto la settimana scorsa e rivisto questa sera. Ora, ci potrebbe essere un approfondimento per quanto riguarda le funzioni. Sì, in realtà, devo essere sincero, io su Access non è che ne usi tantissime, a differenza di Excel, perché in realtà su Access, quando si hanno delle basi di dati, è difficile che si vogliano fare dei calcoli complessi. Gesù sì, però... Sì, sì. Sì, ma d'altro canto anche questa, se vai su in Visualizza SQL, è in realtà... No, ma parlo direttamente... Sì, sì, nessuno te lo vieta. Diciamo che è un pochino più complicata, soprattutto a fronte di uno strumento del genere. Banalmente, io quando lavoro con server SQL... Quindi hanno la necessità, non hanno tutta questa interfaccia grafica che mi permettono di fare finestrelle, eccetera, eccetera. Ma realmente io mi collego tutte le tabelle su Access, mi faccio la query su Access, poi prendo la SQL che mi tira fuori e lo butto dentro nel server. Cioè veramente, dal mio punto di vista, poi per carità del Signore, dal mio punto di vista è veramente inutile andarsi a scrivere l'istruzione SQL. Con MySQL. MySQL, soltanto che non c'è compatibilità. Lo stesso cosa che faccio anch'io. Io lavoro molto con MySQL, che l'SQL non è proprio identico a quello di Microsoft, però grosso modo la struttura è quella, per cui se sai poi l'SQL ti vai a cambiare quel paio di cose e te la rimposti. Ok, allora dicevo, a questo punto in realtà potremmo andare a vedere un po' di funzioni. Ripeto, io non ne farei tantissime e soprattutto le andrei a vedere di volta in volta. Allora, vi posso dire quelle che secondo me possono essere utili. Allora, la prima è questa, l'ABS di un numero. Sì, allora... Quindi, ABS e vuole un argomento che è un numero. Ovviamente il numero deve essere l'intestazione del campo di una cella. L'ABS di un numero sostanzialmente tira fuori il valore assoluto del numero. Quindi se io ho dei valori negativi e dei valori positivi, quello mi tira fuori sempre solo i valori positivi. Il modulo. Poi l'int matematica, sì. L'int di un numero prende la parte intera. Quindi se ho 10,44, lui mi tira fuori 10. Esatto, sì, proprio lo trancia di netto. Poi c'è round numero punto e virgola precisione. C'è la precisione. Dà un arrotondamento. Cioè, mette proprio l'unico che lui quando schiaccia quello ti dà il numero. E precisione. Sì, vedi che c'è scritto qua sotto. Ah, ho capito. Quindi sostanzialmente se io ho 10,456, se gli dico precisione 2, lui diventa 10,46, che fa un arrotondamento. Praticamente arrotonda il decimale. No, arrotonda anche il numero. Se io gli dico precisione 0, lui arrotonda 10,44 diventa 10. 10,60 diventa 11. Esattamente. L'intero. Esatto. Esattamente. Anche qui troncando l'ultimo senza considerarlo. No, lo arrotonda. Arrotonda proprio. Quindi se 10,446 sarà 10,45. Esatto. Ah, se 10,456, se gli dico arrotondami alla seconda cifra decimale, diventerà 10,46. Ok. Poi chiamatelo come diavolo volete, quello che fa è questo. Anche secondo me arrotonda. Oh, signori, scrivetemelo e poi ci riflettete a casa. Cercate su internet e lo chiamate come volete. Comunque, d'altro canto, round, no? Arrotond. Ok, Il SIGN, ma sì, ve lo introduco, tanto... Allora, SGN, aperta tonda, numero. Allora, l'SGN di un numero, come dice la parola, come poi fa intuire la parola, dà il segno del numero. Quindi o mi dà 1 o mi dà meno 1. Questo va... o meno 1. Mi dà proprio il segno. Diciamo che questo abbinato con l'ABS... quindi mi dà sempre il valore numerico, mi permette di fare dei ragionamenti. O ancora, per carità, non voglio usare la parola contabilità a sproposito, ma in una contabilità, ad esempio, dove c'è il dare e l'avere in due colonne differenti, si potrebbe anche pensare di metterle in un'unica colonna, con segno più e segno meno, e quindi avere un'unica colonna, ma in fase di stampa andarle a splittare in due a seconda che il segno sia positivo o sia negativo. Comunque, insomma, permettono di fare un po' di ragionamenti. Per il resto, sulle matematiche trigonometriche, direi che non ce ne sono altre, a meno che non mi interessino i logaritmi o tangenti iperboliche. Ok, passiamo alla mia preferita. Allora, questa qua è il classico se. Chi di voi l'anno scorso ha fatto con me il corso di Excel, il se ce l'ha che usciva dalle orecchie. Qua invece del se si chiama IIF. II, doppia IF. Ma anche se andate su tutte, signori, se andate su tutto lo trovate, altrimenti su flusso di esecuzione programma. Sì, ma se andate su tutte le trovate. Tanto vi sto dicendo i nomi, per cui dovete solo scorrere. Allora, l'IIF non è nient'altro che il se. Ora, poi magari su questo ci facciamo dei ragionamenti, più che altro per chi l'anno scorso non ha seguito con me Excel, però fondamentalmente l'IF o se mi permette di andare a dare della logica al programma. Di fare dei ragionamenti sui numeri. Invece passiamo... Allora, le data e ora le abbiamo viste la volta scorsa, quindi... O meglio, no. Allora, la volta scorsa abbiamo visto sulla data e ora... Mese, anno, eh? Abbiamo visto anche il now? No. Now, aperta e chiusa, mi dà la data e l'ora correnti. Quindi anche qua, per chi di voi ha fatto con me Excel l'anno scorso, si aprono una marea di scenari, perché a quel punto gli posso dire di quanto tempo fa era la bolletta, di, che ne so, un sacco di ragionamenti si possono fare. Poi, allora, time serial mi permette di costruire un orario. Se ho in tre colonne diverse ora, minuti e secondi, me li trasforma in una, cioè, chiaramente avendo ora, minuti e secondi, in realtà ho tre numeri interi, giusto? Che quindi Access li riconosce come tre numeri interi, non come orari sui quali puoi andare a fare delle operazioni sugli orari. Allora, il time serial va ad assemblare tre numeri interi e li fa diventare un orario. Ovviamente tipicamente uno sa l'ora e i minuti, i secondi spesso non li sa, per cui magari ci mette secondo uno. Quindi mette il campo dell'ora, il campo dei minuti e poi ci mette secondo uno. Esattamente. Time value, lasciamo stare, weekday. Ecco, il weekday è carino perché weekday data mi restituisce il giorno della settimana. Salute. Quindi io ci butto dentro una data e lui mi tira fuori 1, 2, 3, 4, 5, 6, che vuol dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Esatto. In realtà c'è anche il weekday name, però il problema di sto weekday name è che lo dà in inglese, almeno che non sia cambiato nelle ultime versioni. Poi, poi c'è il date serial che fa la stessa cosa del time serial, ma con la data. Quindi, esattamente. No, in realtà è anno, mese, giorno. Anno, mese, giorno. Una data. Sì. Allora, come in Excel, se io ho 2001, 01, 2... Se io uso la funzione data, anno, mese, giorno, mi tira fuori una data. Perché questo discorso è importante? Perché in realtà ci sono poi delle funzioni sia in Access che in Excel che mi gestiscono le date differentemente come dei numeri. Ad esempio, su Access c'è il date add e il date diff, che sostanzialmente somma due date o fa la differenza di due date. Chiaro che se io ho tre numeri, lui per lui sono tre numeri, non sono tre date. Quindi altre due belle funzioni sono proprio queste due. Allora, date add . Allora, DateAdd vuole tre argomenti, che sono l'intervallo, il numero e la data. Allora, poi ci andiamo a vedere l'help di questa funzione, perché non mi ricordo mai che cosa bisogna mettere in intervallo. Comunque, in intervallo sostanzialmente gli devo mettere o, mi sembra, D, che vuol dire day, giorno, o M, che vuol dire month, o Y, che vuol dire year, ma ripeto, dopo ci andiamo a vedere la sintassi corretta. Comunque, gli devo dire che cosa voglio sommare. E il numero gli devo dire di quanto. Quindi, data una data, gli posso dire sommami un giorno, sommami un mese o sommami un anno. È chiaro il meccanismo? Cioè, sì, allora, io gli do una data, 5/4/1975, poi gli dico, voglio sommarmi 5, che cosa? Mesi. Questo mi darà 5/9/1975. D'accordo, Vanni? Il mese, le 5 del mese. Ah. Il numero che vuoi. Tu hai una data. Oggi. Il compleanno del tuo anniversario sai che è fra 10 giorni. Metti la data di oggi, 10 come numero, D come intervallo, e fra 10 giorni lui ti dice che è la data del tuo anniversario. Cioè, somma un tot di giorni, un tot di mesi, un tot di anni. Esatto. Sì, tipicamente serve per quello, ma insomma può servire per mille altre cose. Che ne so, hai una tessera della biblioteca, anziché vuoi sapere quando scade fra 6 mesi. Allora gli metti la data di oggi e poi gli metti 6 e poi M di mesi. L'avevamo fatto l'anno scorso. In realtà il metodo più semplice, anche se non è proprio così accurato, è quando tu vuoi fare la somma di una data. Cioè, se io ho una scadenza di 60 giorni. Se io prendo la data più 60, lui fa 60 giorni. In realtà, però, l'anno scorso ce l'eravamo fatti tipo 2 settimane su questo argomento. Perché? Perché in realtà la scadenza delle fatture non è mai fra 60 giorni, ma è 60 giorni fine mese. E allora l'anno scorso avevamo fatto 2 settimane, forse, 2 settimane per, anche 3, perché non è così banale. In realtà poi ho scoperto, se non ricordo male, che l'ultima versione del... fine mese. Ma in questa versione. Ma nelle versioni precedenti non c'era il fine mese. In data e ora proprio. Quindi vedi che ti dice data iniziale, numero di mesi, e lui mi trova il fine mese. Quindi se io dico data iniziale questa, tra quanti mesi? Fra 2, lui mi dà il 31/3 del 2001. Ok? L'anno scorso invece avevamo fatto una formula tipo di 2 righe. Quindi il date add sostanzialmente va a sommare ad una determinata data un intervallo. Un intervallo di giorni, di mesi, di anni. O di anni, esatto. Il date diff invece fa la differenza tra 2 date. Allora, in realtà ne chiede 5, ma poi obbligatori ne sono soltanto 3. Comunque, poi anche di questo ci andiamo a vedere l'help. Sostanzialmente richiede una data 1 e una data 2 e poi un intervallo. Intervallo vuol dire che la differenza ve la segnala o in giorni, o in mesi, o in anni. Cioè, se io gli metto la data 1 e la data 2 e gli metto che voglio la differenza in mesi, lui mi dirà la differenza in mesi. Ok? E basta, sulle date direi che non ce ne sono altre. Poi se mi vengono in mente sugli errori allora, sugli errori facciamo soltanto l'is error. Is error. Sì, Beh, basta. In realtà io faccio un bel formulone e poi lo vado a mettere tutto dentro IsError. E lui mi dice se quella formula tira fuori un errore oppure no. Perché è importante questo? Perché quando io ho delle lunghe tabelle, se io faccio 100 diviso questo numero, ok, e tiro giù la formula, vedete cosa viene fuori? Perché 100 diviso 0 è un errore. E uno dice, vabbè, chi se ne frega? Me ne frega perché nel momento in cui vado a fare magari una somma, una query di calcolo per colonna, se su quella colonna lì c'è un errore, ciccia. E allora con questo IsError, poi dopo andiamo a fare dei ragionamenti nelle prossime settimane, ti posso dire se c'è un errore mettimi 0, mettimi 1, mettimi qualcosa. Comunque fai in modo che non sia un errore. Ok? Comunque ci andiamo a ragionare poi sull'IsError. E basta, direi. Ah, ci sono tutte le ispezioni. Ah, sull'ispezione. E ci sono anche le testo. Ok. D'accordo, signori? Allora, io questa sera vi chiederei una piccola cortesia. Se possiamo finire qua, perché ho dei problemi con il treno successivo, perché stasera sono in treno, ho dei problemi con quello del 12:30, perché probabilmente lo tolgo, e siccome ce n'è uno alle 10:20, se mi perdo quello non torno a casa. Quindi vi chiedo di pazientare questa settimana. La prossima settimana, magari Vanni se me lo ricordi, andiamo a vedere le funzioni di tipo testo e di ispezione.